Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, quello che sentite ovviamente è la tempesta di William Shakespeare in scena da venerdì al Globe Theatre di Roma, regia di Daniele Salvo e nel ruolo di Prospero, un grande maestro del teatro italiano. Buon pomeriggio a Giorgio Albertazzi. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio, salve. Che cosa vuol dire interpretare Prospero? L'aveva mai interpretato? No, questo è uno degli Shakespeare che non ho mai fatto. Ne ho fatti 14, credo più di chiunque altro. Praticamente sono vissuto di Shakespeare, però la tempesta non era ancora... perché la tempesta non l'ha mai convinto. Non la convince perché è metà tragedia e metà commedia? Non mi ha mai convinto prima, cioè, tragedia mi pare che non compaia quasi veramente nemmeno nella tempesta. È una commedia, è un dramma forse a un certo punto, ma non mi convinceva perché non riuscivo a capire il rapporto fra questo essere definito mago e il plot, insomma, la storia complicata dei nobili, dei buffoni. Quello è tutto un materiale elisabettiano molto interessante, ma un po' avulso. Chi è questo Prospero? È un mago di che? Mago di che? È un mago artista, è un mago che mano a mano si spoglia della magia, di tutte le sue qualità, per restare uomo. Forse questo è il segno, ma non lo so. Fatto sta che lo spettacolo ha avuto un successo molto forte a Verona. Non lo so, la tempesta dell'anima. E c'è poi però l'epilogo, noi l'abbiamo preso durante le sue performance e lo vogliamo sentire, lei che praticamente recita questo grandissimo epilogo di Shakespeare. Signori, il nostro gioco è finito. Gli attori, i musici, i personaggi, evocati spiriti, si sono dissolti nell'aria fine della notte. E come trama effimera dileguaranno le torri ammantate di nuvole, le regge, i balconi degli amanti, i templi solenni. Dileguano subito le cose risplendenti, un lampo e poi più nulla. Guarda, non c'è tempo di dirlo, noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni e la nostra breve vita si conclude in un sonno. Signori, sono turbato. Questo è il momento del commiato. Ora qui rinuncio alla magia. Spezzo la bacchetta dei miei compagni. Ora l'energia che mi resta è soltanto la mia, spogliata. Non fatemi rimanere in quest'isola nuda. Ora la vostra simpatia dia fiato alle mie vele. Volevo divertirvi. Della vostra paziente indulgenza sono grato, sia gioia a voi. Il gioco è terminato, signori. Buonanotte. Beh, lo Shakespeare classico del teatro, l'Albertazzi strepitoso, sempre. Ma è un bellissimo pezzo questo. Allora, ormai la parentela con Shakespeare è stretta, sempre più stretta, perché alla fin fine si può dire che ho fatto solo Shakespeare. No, non è vero, però mi sono alimentato di Shakespeare da sempre, da ragazzo. A Firenze c'era un fotografo famoso insomma nella città naturalmente, che aveva una vetrina in piazza del Duomo dove c'erano due fotografie, la fotografia di Franco Enriquez, che poi sarebbe diventato un grande regista, truccato in un qualche modo dal Moro di Venezia, cioè da Otello, aveva i capelli ricci, sì, era un bellissimo ragazzo, sembrava un pontormo. E dall'altra parte della vetrina c'era un'altra fotografia con me, che avevo un maglioncino nero, ero Amleto, già allora, ma io so che lei poi diventerà King Lear anche durante quest'anno, sì. È vero? A settembre ci sono, sì, con le prove cominciano del mio terzo Re Lear. Quindi, spero sia quello definitivo. A contrastare ovviamente Albertazzi in scena, ma anche nella commedia di Shakespeare Prospero, c'è Calibano, che è interpretato da Gianluigi Fogacci. Quest'isola è mia! Mi venne da Sicorax, mia madre, e tu me l'hai presa! Appena arrivato mi accarezzavi e mi tenevi sul cuore e mi davi acqua con dentro i mirtilli e mi insegnavi a nominare la luce più grande e quella più piccola che bruciano di giorno e di notte. E allora, Gianluigi, poi però c'è il tradimento di Giorgio Albertazzi Prospero. Sì, buongiorno a tutti. Che cosa succede? Beh, intanto vorrei precisare che io in scena non cerco di contrastare il maestro Albertazzi, casomai di affiancarlo, e poi volevo dire che se lui sta a 14 io sono al mio 11° Shakespeare, che quindi insomma gli sto alle calcagna, ecco. alle calcagna questi giovani, maestro, corrono. No, perché con il regista Daniele Salvo siamo al nostro quarto Shakespeare qui al Globe. Quest'anno ci avvaliamo del prestigio, del carisma e inaspettatamente, perché non lo conoscevo, della straordinaria simpatia di un compagno di lavoro e di un maestro come Giorgio Albertazzi. E l'anno scorso, per esempio, abbiamo fatto l'Otello, dove io facevo Iago, e abbiamo fatto il record assoluto. Sempre cattivi, Gianluigi, sì, come mai? Cattivi, perché allora sono buono nella vita e allora devo cercare l'altro me, capito? Attraverso il teatro cerco l'altro me, che è quello cattivo, insomma. Allora, Calibano è un uomo mezzo pesce, mezzo uomo, insomma un mostro della natura, un figlio di una strega. È tutto quanto può dare disgusto, no? Esatto. Poi ripreso da varie cose durante... È un antesignano di tanti personaggi negativi, tra cui Gollum nel Signore degli Anelli, se vogliamo banalizzare a Tolkien, sì, no? Sì, ecco, infatti bisognerebbe dire che non è che è il regista che si è ispirato a questi film per creare la figura di Calibano. Casomai sono questi registi che sono ispirati a Shakespeare per trovare, come giustamente ha precisato lei, ecco. E sì, è un personaggio negativo, ma poi c'ha le sue infantilità, le sue tenerezze. Io ci vedo tanto un po' del popolo italiano in questo Calibano, che ha sempre bisogno di un tiranno da cui però poi vuole liberarsi ma non riesce poi a farlo. Insomma, ci abbiamo sempre bisogno di un tiranno benevolo o malevolo che sia, perché Prospero è un personaggio molto complesso, capito? Non è solo il mago, è anche uno che tiene segregata la figlia, che tiene appunto questi spiriti al suo servizio e che hanno questo spirito di indipendenza. Insomma, è una vicenda molto sfaccettata, ecco. Giorgio Albertazzi, è vero, Prospero, sì, è un da una parte un tiranno con Calibano, ma anche con Ariel, no? Perché lo libererà Ariel solo a lavoro terminato. Ariel, ricordiamo, lo spiritello che aiuta nelle magie Prospero, ma è anche un personaggio che è capace di perdonare. Sì, ma non c'è nessun elemento nel rapporto cattiveria e bontà da parte di Prospero, all'intransigenza dei grandi artisti. Io non riesco a vedere questi risvolti molto sociali, per esempio. Certo, ci sono sempre inavvertitamente in Shakespeare. Qui vedo proprio l'artista, che rinuncia a se stesso, rinuncia alle sue qualità, rinuncia ai suoi pregi, ai suoi vantaggi, al suo talento. Quindi liberare Calibano significa liberarsi dai mostri. I mostri sono quelli della creatività. Non tutti riescono bene, riescono male spesso. Riescono con quattro zampe, sette occhi. Vediamo un po', pensiamo a Picasso. E lui in qualche modo se ne libera. Vuole riuscire a rompere questa, che lui chiama bacchetta magica, che è il suo talento di artista. Quindi lui crea la tempesta, diciamo, un artista che crea. È una tempesta interiore, naturalmente, che qui viene cabellata come invenzione da Shakespeare, perché come poteva fare a raccontarla altrimenti, ma è una tempesta interiore di un uomo che dovrebbe essere solo sul palcoscenico e raccontare come da artefice di sogni e di realtà inesistenti, cioè l'artista, l'autore, lo scrittore, il pittore, potrebbe essere tutto, da questo c'è un depauperamento progressivo che viene da che cosa? Deriva forse dalla una specie di rivolta nei confronti della creatività. Cosa c'è dietro tutto questo? Dietro l'invenzione, dietro le ipotesi, i sogni, c'è forse l'umano. L'umano. Quando a un certo punto ha liberato anche Ariel, si volta alla platea e dice: e ora andrò a Milano, dove un giorno su tre sarà dedicato alla mia tomba. Grazie Giorgio Albertazzi, lo ricordiamo, Prospero nella tempesta di William Shakespeare, in scena al Globe Theatre fino al 1 agosto, al Globe Theatre di Roma, Villa Borghese, ore 21:15, e grazie anche a Gianluigi Fogacci, che è un calibano eccezionale, molto molto poliedrico. Ovviamente sì, si può dire anche, certo. Ci sono anche altri grandi ovviamente interpreti, Virgilio Zernitz, Carlo Valli, Melania Giglio, assolutamente Meoli, Massimiliano Giovannetti e molti altri. Melania Giglio fa Ariel, tra le altre cose. Sì, regia di Daniele Salvo. Noi abbiamo scelto un po' di contrastare i due protagonisti di contrasto, e ovviamente si spezza la bacchetta, e noi vogliamo che ascoltare questo brano di Giorgio Albertazzi, che interpreta Prospero. Io ho oscurato il sole a mezzogiorno, radunato eventi bellicosi, tra il verde mare e l'azzurrata volta del cielo, scatenato guerre urgenti, ho dato fuoco al tremendo, strepitoso tuono, schiantato la solida quercia di Giove con la sua stessa folgore, ho scosso il promontorio con la sua ferma base, diverto alle radici il pino, il cedro, a mio comando le tombe hanno svegliato i loro morti, si sono spalancate e li hanno fatti uscire grazie alla mia arte. Ma questa ruzza magia io adesso abiuro. Summer Time. E adesso andiamo al Forte Teatro Festival Parco Archeologico, questo è un nome difficile, di Messina, però credo che sia Yakiddu. Roberto Bonaventura, direttore di questa rassegna, buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno, come buongiorno, si chiama il parco? Mi scusi, ma col siciliano io mi confondo. In siciliano lei l'ha detto benissimo, il Parco Ecologico San Yakiddu, sarebbe Giacomo, San Giacomo Yakiddu in siciliano, quindi io già mi immergo in questa atmosfera di cannoli, di granite, mamma mia, basta pensare alla Sicilia e si impazzisce in questo periodo per quanto è bella. E noi veniamo che stasera c'è addirittura Eleonora Bova e Alessio Bonaffini nell'Amante di Pinter, mentre mercoledì avete lo spettacolo internazionale Madame con Sumako Koseki, quindi il Giappone incontra la Sicilia. Sì, questa artista giapponese, che non è la prima volta che viene qui in Sicilia, quest'anno ha voluto per forza fare uno spettacolo qui al Forte Teatro Festival, e quindi siamo tutti contenti perché tra l'altro lei fa danza buto, quindi già è molto suggestivo. Danza come? Danza? No, perché lei dice delle cose che magari possono sembrare scontate, ma per noi scontate non sono. Danza buto. Buto. È un teatro danza giapponese tradizionale, insomma, lei lo arricchisce con movimenti contemporanei, con contaminazioni contemporanee, e quindi sarà molto suggestivo perché sfrutterà tutto il forte, tutto il parco, che è molto grande, con i suoi movimenti, con luci particolari, quindi sarà molto suggestivo, questo il mercoledì. Mentre oggi appunto c'è l'Amante di Pinter, di questi due artisti che sono Eleonora Bova e di Venezia, lui è di Messina, quindi nord incontra sud, anche qui che metteranno in scena l'amante di Pinter. Il tutto sempre all'interno di questo parco, che io sottolineo e continuo a dire che è molto bello, ed è bello anche che le compagnie che vengono qui si adattino alla bellezza naturale del forte, quindi usano lo spazio scenografico che c'è qui, usano poche luci, perché più naturale è lo spettacolo, più bello è, e questo viene molto apprezzato dal pubblico. Abbiamo avuto anche Emma Dante, che ha fatto il primo spettacolo, che ha usato una collinetta su un prato, quindi è stato molto suggestivo. Diciamo che è una particolarità, ecco, fare lo spettacolo in un posto così, e quindi questa cosa viene molto apprezzata. Allora, ricordiamo che per chi sta andando alle Isole Eolie di fermarsi a Messina al Parco San Yachiddu, perché c'è questa rassegna Forte Teatro Festival Parco Ecologico questa sera, l'amante di Pinter alle ore 21, e poi abbiamo sentito Madame mercoledì 28 luglio con Sumako Koseki. Grazie. Grazie a voi. La donna, di professione maestra elementare, si chiamava Ida Ramundo, vedova Mancuso. Di età aveva 37 anni compiuti e davvero non cercava di sembrare meno anziana. Insegnava in una scuola verso la Garbatella, lontano dalla sua abitazione, che era nel quartiere San Lorenzo. E quella che sentite è Yaya Forte, che legge un famosissimo romanzo, uno dei più belli della nostra letteratura, La storia di Elsa Morante. E allora, per ascoltare questa attrice che si esibisce in questa nuova kermesse, basta andare questa sera a Villa Leopardi in via Nomentana per ascoltarla nelle parole Sono donna, ma anche adesso in Summertime. Buon pomeriggio, Yaya. Buon pomeriggio a tutti. Senti, allora, che cosa vuol dire confrontarsi con Elsa Morante? Poi è un periodo della tua vita che ti confronti con i grandi classici della letteratura. Sì, prima di tutto perché adoro questi grandi romanzi, quindi è un incontro di passione prima cosa. E poi Elsa Morante è una scrittrice che mi piace moltissimo. La storia è un romanzo che ha avuto un esito, è stato uno dei romanzi italiani più venduti, ma contemporaneamente ha avuto è stato bistrattato dalla critica, ma secondo me è un romanzo gigantesco in cui le sorti della città, della città di Roma e dei personaggi protagonisti sono simili, entrambi devastati dalla guerra, per cui c'è una riflessione sulla guerra che trovo anche molto contemporanea, perché appunto non solo il romanzo è ambientato naturalmente nella Seconda Guerra Mondiale, però anche gli eventi attuali sono abbastanza devastanti, per cui nei grandi scrittori c'è sempre un elemento di attualità. E poi trovo che un attore debba porsi il problema etico proprio di farsi portatore di grandi parole, perché le grandi parole significano anche grandi pensieri, e quindi mi piace sempre affrontare, fare le letture, appunto i reading, per poter rendermi tramite di grandi scrittori e quindi di grandi pensieri. Senti, questo spettacolo di questa sera infatti si chiama Roma Doma, no? Perché ha un titolo speciale, ma tu in questo periodo sei stata anche coinvolta nella lettura dell'Ulisse di Joyce, in particolare nella lettura di Molly Bloom in napoletano, giusto? Sì. Com'è andata? Come può un irlandese essere napoletana e una napoletana essere irlandese? Guarda, in realtà è stata un'idea del regista, di Carlo Cecchi, che ha pensato che aveva sentito un disco di una famosissima attrice irlandese che recitava Joyce, e gli era sembrato molto più simile al napoletano che per la musicalità della lingua di Joyce che all'italiano, e quindi ha deciso di mettere in scena questo spettacolo tradotto in napoletano, che adesso ogni tanto tu poi riproponi, no? L'hai proposto pochissimo fa. Mio repertorio, lo adoro farlo, trovo che anche quello sia uno dei testi più belli sulle donne, più poetici, più fantastici. Senti, ma una battuta di Molly Bloom in napoletano non ce la riesci a fare? Il finale. Sì, ti prego. Pacchetto mi piacetto, sì, perché sentiva che cos'è una femmina e gli ci ha girato tutto quello che ci poteva raffna quando non mi facetta dicere sì. Che sarebbe yes, yes, I said, yes, proprio, no? Come in inglese mi sembra che fosse così, ma è esattamente identico, il senso è quello. Allora, per scoprire Yaya Forte, per riscoprire Yaya Forte, grandissima attrice cinematografica, ma adesso anche teatrale, o anche da sempre teatrale, soprattutto questa sera Le parole sono donne, Roma Doma reciterà la storia di Elsa Morante a Villa Leopardi in via Nomentana, ore 21:30, sono spettacoli gratuiti. E poi abbiamo sentito, porterà in giro il suo Ulisse di Joyce, anzi la sua Molly Bloom. Ciao Yaya. Ciao, un bacio a tutti, grazie. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it e che potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it, ricordandovi anche che potete vedere quali sono gli appuntamenti della serata. E allora, buona serata a tutti.